Hai mai visto dinosauri che soffrono il solletico, ridono e vengono in macchina con te? Hai mai visto dinosauri che non mangiano Nutella, non fumano e non si bevono il tè? L'hai mai visti, caro amico? Io l'ho visti e sai che dico, a me piace la terra. L'hai mai visti, caro amico? Io l'ho visti e sai che dico, a me piace la terra. Dormi 3 ore appena sveglio alla stazione. Il presagio mi scroccò una sigaretta e si portò via anche il mio cuore. Aveva le mani sporche di nero e vidi Dio sul mio vagone, vidi Dio, era in treno. L'hai mai visto, caro amico? Io l'ho visto e sai che dico, a me piace la terra. L'hai mai visto, caro amico? Io l'ho visto e sai che dico, a me piace la terra. Il cielo della Toscana mi accolse con calore. Necessitavo di caldo, sapete, a Milano non c'è il sole. Non c'è il sole sul Naviglio, non c'è il sole a Parco Sempione, neanche a pagarlo oro che guarda caso il suo colore. Tornai in un parco ad abbracciare i dinosauri, ma si erano estinti e mi sentivo a terra. Tornai in un parco ad abbracciare i dinosauri, ma si erano estinti e mi sentivo a terra.